Se io non ti toglio un bacio, se io non ti toglio un bacio, mi morro di desiderio, mi morro di desiderio. Ma te lo puoi, che ma te lo puoi, che formaggio ti voglio, voglio, voglio, voglio, tanto pulirmi gli occhi tuoi, tanto pulirmi gli occhi tuoi. Yeah.